Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino dal titolo Fumare. Oh, fumarsi una bella sigaretta dopo una lauta colazione al bar, sapessi che emozioni provo, di calma e fierezza piene, il tutto è in armonia con il tutto e l'essere mio è nel buono stato d'animo, anche se nel mondo dell'oggi qualcosa va per il suo giusto verso. Lasciami così, senza proferir parola, sono contento e tanto mi basta, durasse anche solo un istante.